La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, è La Rosa Purpurea, il nostro settimanale di cinema qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, una settimana con 9 nuove uscite in sala, una settimana che ha avuto il momento culmine anche denso di polemiche con la consegna di David di Donatello, dove c'è stata l'affermazione di Paolo Virzì, che è andata un po' in controtendenza rispetto al pieno di premi Oscar su tutti effettuato quest'anno dalla grande bellezza di Paolo Sorrentino. Ma noi come sempre abbiamo scelto invece 4 consigli per questo fine settimana al cinema, questo caldissimo fine settimana, tra l'altro con il concorrente più temibile del quadriennio, ovvero i mondiali. È anche vero che l'Italia per esempio gioca a mezzanotte, quindi bene o male si riesce a fare sia cinema che partita, e che tutto sommato la Rai almeno non le fa vedere tutte, quindi qualche piccolo ambito di resistenza cinematografica ci può essere anche in questo fine settimana. Allora andiamo subito a andare a sviscerare queste proposte, che sono volutamente ovviamente d'autore, perché ovviamente i distributori cercano un pubblico che magari è meno interessato alla grande kermesse calcistica e potrebbero invece essere una nicchia importante per un cinema di qualità. Noi cominciamo subito a parlare di quello che forse è il film che ci ha convinto di più in redazione, ovvero Le Weekend. È un film che porta un titolo francese e in effetti si svolge tutto a Parigi, la regia di Roger Mitchell, gli attori sono però anglofoni, da Lindsay Duncan e Jim Broadbent protagonisti, ha una straordinaria partecipazione di Jeff Goldblum. È una storia d'amore, è una storia di un amore anziano, diciamo così, una coppia inglese di ultra sessantenni che arriva a Parigi, scusate, per un weekend appunto, che diventerà una sorta di resa dei conti, partendo però da un amore ancora molto appassionato. Nick Barrows? No, sei proprio tu, in preda a questa terribile passione non inglese. Oddio, buon Dio, ciao. Sì, ciao, come stai? Come sta la peste più bubbonica dell'intero mondo? Raccontami tutto di te. Oh, la grande, fantastico. Beh, niente male, eh. Beh, allora questa è mia moglie Meg Morgan. Morgan Meg. Non ho mai visto un uomo baciare sua moglie in quel modo. Un incontro inatteso a Parigi, quello appunto con il vecchio amico Jeff Goldblum. Nick e Meg sono una coppia che cerca di rivitalizzare il proprio rapporto, che è diventato un po' arido da quando i figli se ne sono andati. È uno dei temi importanti: cosa succede di una coppia quando i figli compiono la loro parabola, escono dall'ala protettrice e ti lasciano sostanzialmente solo. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, questo Le Weekend è stato per me abbastanza sorprendente, perché riesce a essere universale nonostante tratti appunto di un amore in una fase della vita molto particolare, e poi ha rivelato una vena da attore protagonista di Jim Broadbent, che forse fin qui avevamo conosciuto più come attore di spalla o caratterista. E su quello sono d'accordissimo, l'ennesima grande sorpresa di un caratterista che veste vanni da protagonista in maniera straordinaria. Le Weekend è un bel film, perché ha la grazia e la forza di imporsi con i dettagli. Alla fine può sembrare qualcosa di banale, una coppia che va a Parigi per ritrovarsi, persino il fatto che sia avanti con l'età, non molto avanti, ma abbastanza avanti da essere stanca, insofferente, appunto, da essere stata, tra virgolette, abbandonata dai figli, non è una soluzione originale. Però questa costruzione di Roger Mitchell, costruita proprio sui dettagli, sul percorrere questa città attraverso i suoi bistrò, attraverso le sue case, una scenografia cittadina molto naturale, il trovare nelle parole, nei discorsi, nelle piccole confidenze che ancora dopo 30 anni si scoprono essere nuove, nel senso che alla fine, per esempio, Broadbent, quando si confessa con la moglie, gli fa capire che il prossimo pensionamento non sarà facile, si capisce che stanno insieme da tanto tempo, ma non necessariamente parlano come dovrebbero parlare due persone che stanno insieme da tanto tempo. Tutte queste cose vengono unite da una grazia nel racconto, una capacità nel racconto che non è mai retorica, che non è mai facile, che non cerca mai una scorciatoia, tant'è vero che comunque il finale ha un che di sorprendente. Non parliamo di un capolavoro, ma è un film in cui tutte le cose sono al posto giusto, chiamalo poco. Ero con un'amica e ha squillato il telefono e ho parlato con il mio interlocutore E alla fine della conversazione lei ha chiesto: chi era? Era il tuo amante segreto? Sembravi così contenta di sentirlo. Era mio marito. Andiamo subito a giocare. Andiamo a giocare con la prima delle due tracce di un film misterioso da indovinare. Sentiamo. Come andiamo, vecchio mio? Ehi, hey, Walter, come vi trattano? Sono piuttosto clementi con noi. Credo che abbiano pietà di noi anzianotti. Io non li ho mai amati, percorsi ad ostacoli. E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, avete sentito, si parla di percorsi ad ostacoli, quindi con un'ambientazione abbastanza già definita. Il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre larosapurpurea@radio24.it. Scriveteci il titolo del film, il vostro nome e cognome. Provate a vincere quello che sarà una dei due, delle due copie in Blu-ray di questo film, di cui fra poco vi faremo sentire un'altra traccia. E parliamo adesso di Gabrielle, un altro dei film che arrivano in questo weekend, di Louis Archambault, con Gabrielle, Marion Rivard e Melissa Desormeaux-Polen, che racconta la storia di una ragazza con uno stile quasi documentaristico, appunto Gabrielle, ventenne, un deficit intellettivo da portarsi dietro nella vita, ma anche un grande amore da vivere per la prima volta. Ciao, ciao. Ciao. Buongiorno Gabriele. Buongiorno, ciao. Ciao Gabi. Ecco le mie bambine, lei è Sofì. Salve. E lei Gabriele. Piacere, Cincin. Vostro marito? È lui che insegna in India. Il mio fidanzato è dall'altro capo del mondo. E allora perché non lo raggiungi? Non è una scelta facile. Hai già il biglietto, sali sull'aereo e voli da lui. Gabi è innamorata. Ha un ragazzo, si sono baciati e tutto il resto. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Tanta musica anche in Gabrielle. Boris, come viene fuori questo tentativo di raccontare appunto anche in questo caso una storia d'amore particolare? Tutto è giocato sui dettagli e su una sceneggiatura di coerisce allo stesso tempo complessa e semplice, qui è più un woman show. Gabrielle esiste nella realtà, l'attrice ha la sindrome di Williams esattamente come la protagonista che ci troviamo davanti, e questo regala una realtà, una verità al film che altrimenti l'aspetto quasi fiabesco potrebbe sottrargli. Bisogna sempre tenere presente che quel deficit mentale è quello che consente a quell'attrice di essere così brava, perché la sindrome di Williams aumenta, diciamo, semplificando, la capacità di essere estroversi fino ad essere estremo, e però probabilmente questo consente a questa artista di saper recitare e anche cantare meglio di chiunque altro. Il film è un inno alla libertà e un inno all'amore. Quando ci si trova di fronte alla diversità, probabilmente sono i normali ad avere un handicap. L'handicap è la paura, l'handicap è l'incapacità di rapportarsi a queste persone. Gabrielle non ha paura di niente, non ha paura dell'amore che ha di fronte, non ha paura di viverlo, non ha paura nemmeno della paura che ha di fronte nel suo innamorato, e vuole essere indipendente, non le interessa del suo ritardo mentale, non accetta i limiti che la società vuole imporle, un tutore e la normalità, lei vuole vivere come desidera. Ecco, la forza di Louis Archambault è quella di regalare questa parabola che può sembrare una favola con grande realismo. La rosa purpurea. E allora, vi avevamo parlato nella prima parte di Le Weekend, storia di due professori inglesi che si spostano a Parigi per ritrovare il loro amore. Rompicapo a New York, con cui apriamo la seconda parte, la storia di due parigini che vanno a New York per ricominciare la loro vita. Passo e contrappasso, potremmo chiamarli, di questa settimana al cinema. Questa volta dirige Cédric Clapiche, che in fatto di commedie sentimentali anche molto brillanti è uno che ha dimostrato di saperci fare, con Romain Duris e Audrey Tautou insieme a Cécile de France nel cast. Sentiamola qui. La vita per la maggior parte della gente è andare dal punto A al punto B. Ma per me non è così. Io ho il problema del punto B. È strano che tu veda la vita così complicata. Sono qui a New York per vivere accanto ai miei figli, avuti da un inglese con la quale ho vissuto 10 anni, in Inghilterra, a Parigi. Intanto ho una figlia con due lesbiche. Ho sposato una cinese per diventare americano. E la vita non è complicata? E allora, la vita è molto complicata, lo raccontano anche i protagonisti di Rompicapo a New York, titolo originale Casse-tête chinoise. Boris, nel 2002, con il suo forse lavoro più importante e più popolare, L'appartamento spagnolo, Cédric Clapiche ci raccontava un po' la commedia simbolo della generazione Erasmus, potremmo dirla. È andato avanti su questa strada raccontando delle bambole russe e finendo con questo terzo capitolo della saga a New York. Con quali risultati? Tu dici che è andato avanti, io ho l'impressione di no, anche se siamo al terzo atto di questa saga, mi sembra che Clapiche abbia fatto l'errore che si fa in tutti i sequel, cioè quella di veder sbiadire agli occhi dei propri spettatori tutto il brio, tutta la forza, tutta la spontaneità, tutto il piacere anche di fare cinema e di vedere cinema che c'era nell'originale. L'appartamento spagnolo era un caso unico di commedia che andava a prendere anche un target cinematografico che era stato sempre trascurato, una capacità di raccontare una generazione che non era stata molto capita probabilmente neanche dalla generazione stessa, e aveva poi quell'attore meraviglioso che insomma fece innamorare mezza Europa, che è appunto Romain Duris. Qui rimane forse un cast molto buono, perché Romain Duris, Odrita Tu e Cécile de France, non ci si può nascondere, sono bravi anche quando non diretti al meglio, ma Rompicampo a New York secondo me per una volta dimostra che i titolisti italiani sono più bravi di quelli stranieri, perché è davvero una commedia rompicapo, si fa fatica a capire che cosa si voleva in scrittura, che cosa si voleva in sceneggiatura, si ha una visione quasi enigmistica dell'amore e però non si ha lo stesso coraggio che si cerca in scrittura poi nel finale. Quindi francamente è una simpatica commedia francese, commedia sentimentale francese, che vorrebbe essere Truffaut ma non riesce ad essere nemmeno il primo Clapiche. E allora, questo per quel che concerne Rompicapo a New York. Adesso noi apriamo una seconda parentesi col nostro gioco, con la seconda clip del film misterioso di oggi. Il cuore come va? Batte ancora. Vuoi entrare in guerra? Devo mettere insieme una squadra per proteggere ciò che è rimasto e trovare ciò che manca. Non sei un po' troppo vecchio? Sì. Beh, insomma, qui manca solamente il titolo. Questo ditecelo voi alla Rosa Purpure a @radio24.it. Parliamo adesso di The Congress, la quarta e ultima proposta in sala della nostra settimana, della nostra scelta. Un film di Ari Folman, lo ricorderete con il suo animato e dirompente Walzer con Bashir, ma che questa volta si sposta sul terreno del live action, almeno in parte, almeno nella prima parte, con una protagonista che è se stessa anche nel film, ovvero Robin Wright. Una volta la conoscevamo come Robin Wright Penn, perché era la signora Penn. Un film assai interessante, ma anche assai sbagliato, a mio modo di vedere. Ne sentiamo una parte, una clip, e poi ne parliamo. Avevi tutto, Robin. Eri una stella a 24 anni. Hai sbattuto tutte le porte dietro di te e hai infranto tutti i nostri sogni. Erano a bisogno di me a casa. Ma Aaron era solo una scusa. Svegliati, Robin! Qui è in gioco la tua libertà. Scansionarti. Totalmente, il tuo corpo, il tuo volto, le tue emozioni. Voglio geni di Forrest Gump. Vogliamo avere un tuo campione completo per conservarti, per far nostra questa Robin Wright. Questa è la clip da The Congress. Non è un caso che nel trailer la parte più bella, che è quella che vi abbiamo fatto sentire, è tutta ascrivibile alla parte del film in live action. E qui sta forse il motivo per cui vi dicevo film interessante ma sbagliato. La storia di una Robin Wright che vive in un hangar con due figli, di cui uno con una disabilità. Il suo agente le procura, un suo agente che tra l'altro ha un volto noto come quello di Harvey Keitel, le procura un nuovo appuntamento per provare a perpetuare, questo è il verbo giusto, la sua storia di attrice, perché come avete sentito si tratterà di scannerizzare Robin Wright, di tenerla com'è in quel momento per sempre. Lei non potrà più fare film recitando davvero, però la sua immagine scannerizzata potrà fare tutti i film che vuole e perpetuare appunto il suo successo. C'è un impianto proprio di storia futuribile davvero affascinante e straordinaria. A mio modo di vedere, Boris, il film comincia a incespicare nel momento in cui diventa animato. Sì, il film comincia a spiegare nel momento in cui diventa chi ha incastrato Roger Rabbit serio, sostanzialmente, cioè quando si entra in questa sorta di villaggio, di mondo in cui queste multinazionali ormai hanno fagocitato il mondo come lo conosciamo, e che però allo stesso tempo la tecnologia ha fatto sì che questo mondo stesso cambiasse e anche migliorasse in parte. Diciamo che l'impianto teorico che poggia su quell'animazione, quella sorta di Matrix alla Yellow Submarine, però è davvero troppo anche per le spalle molto larghe di Harry Folman, che è uno che non ha paura di prendere temi molto alti. E detto questo, io non riesco ad essere cattivo verso The Congress, perché The Congress ha il coraggio veramente di prendere in mano una serie di temi fondanti della nostra società, in particolare della società dello spettacolo, e Robin Wright, come al solito, è un'attrice straordinaria che interpreta se stessa anche con un'autoironia pazzesca. Se volete enigmisticamente andare a pescare le citazioni che ci sono sulla sua vera carriera, scoprirete come veramente si spoglia completamente in questo film. In più, in questo film, secondo me, c'è una scena da storia del cinema, che è quella in cui il momento in cui Robin Wright consegna la sua immagine a questa major, che è una sorta di multinazionale monstro, e Harvey Keitel, per tirargli fuori tutte le espressioni che poi serviranno al cinema per restituire l'attrice in tutta la sua completezza, fa un monologo di 6 minuti con dei piani di ascolto di Robin Wright che valgono il prezzo del biglietto. Insomma, The Congress sembra un po' tutto quello che si dovrebbe fare al cinema, ma anche tutto quello che non si dovrebbe fare al cinema nella seconda parte. Però meglio chi rischia che chi si nasconde. Assolutamente, quindi, questo senza dubbio. Non riesco a volergli male. No, esatto. Ma sono completamente d'accordo con te. Io mi sono solo molto arrabbiato quando ho pensato cosa poteva essere quel film se quell'altra ora fosse stata ancora sul tenore della prima. Boris, grazie per averci raccontato anche questa settimana la tua sui film del weekend. Ci sentiamo la settimana prossima. Alla prossima settimana e buon cinema. Oh, bene bene, allora esaurita la abbondante pagina dedicata alle novità in sala sul grande schermo, noi andiamo a risolvere il game della settimana scorsa. Hai cominciato in questo locale a bere? No, papà mi faceva assaggiare la birra. E tu hai tramandato questa bella tradizione di famiglia a me e Ross. Ti piaceva, da quel che mi ricordo. Avevo 6 anni. E allora si trattava di Nebraska, l'avevamo detto, uno dei film più belli di questa stagione cinematografica, era un caso anche protagonista nella notte degli Oscar, che è arrivato in edizione un video in Blu-ray. E allora il Blu-ray lo vinceranno i nostri ascoltatori Andrea Santamaria di Genova e Luca Tagliuti di Napoli, che per primi hanno indovinato il titolo del film. E noi ci facciamo raccontare invece i contenuti di questa edizione un video dagli amici di Film TV, e con noi come sempre c'è Giulio San Giorgio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. L'anziano ha cercato Woody Grant, è convinto di essere il vincitore del primo pieno premio di una lotteria, ma ovviamente una trappa pubblicitaria. Decide però di partire per ritirarlo. Il figlio, preoccupato per il padre, decide di accompagnarlo. In un altro dei road movie firmato da Alexander Payne, autore di Sideways, a proposito di Smith, che è un tenero cantore di un'umanissima America. Il Blu-ray è sicuramente di buona resa audio-video e contiene pochi extra, tra cui un interessante dietro le quinte. E allora Giulio, per quanto concerne invece le segnalazioni dal palinsesto della televisione, abbiamo fatto una scelta davvero, anzi devo dire molto serenamente, hai fatto una scelta che io ho apprezzato molto, quella di segnalare un passaggio alle 5 del mattino, orario più che proibitivo, ma insomma ci sono i registratori apposta, La morte ha fatto l'uovo di Giulio Questi, lunedì 16 giugno su Rai Movie, appunto alle 5 del mattino. Perché è importante scoprire o riscoprire questo autore? È il film di culto di un autore segreto, Giulio Questi, autore di altri 2 film, uno è Se sei vivo spara, un western, e l'altro Arcana. Un film, un giallo kitsch, una sorta di eccellenza del cinema bis italiano, un giallo veramente delirante, con Trintignana attonito e una Lollo assolutamente fuori parte, ma genialmente fuori parte, una critica sulla società del consumo incentrata su un allevamento intensivo di polli che nel 68 erano già geneticamente modificati, una sorta di tripudio pop art montato dal genio di Kim Marcalli e musicato niente poco di meno che da Bruno Maderna. Questi, che tra l'altro ha compiuto quest'anno 90 anni, è uscito in libreria con un bellissimo libro sulla resistenza, Uomini e Comandanti, lui che tra l'altro, se non fosse morto Fenoglio, avrebbe dovuto fare un film con lui. E allora, questi sono tanti dei motivi per vedere alle 5 del mattino del 16 giugno su Rai Movie La morte ha fatto l'uovo. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla conclusione allora del nostro programma. Noi, io vi do appuntamento la settimana prossima, perché anche per tutta l'estate la Rosa Purpurea non va sicuramente in ferie. Allora ci risentiamo, mondiali o non mondiali, per parlare di tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisi.